Siamo in collegamento telefonico con Luca Immesi che con Giulia Brazzale ha firmato il film Le guerre orrende in sala al Nuovo Cinema Aquila a Roma dal 21 giugno al 5 luglio. Luca, benvenuto. Ciao a tutti, ciao Federico. Come lo racconteresti in breve? L'hanno definito un film jodorowsky, pazzo, però con un filo narrativo ben godibile, che facilmente si può seguire. E il film è molto particolare, tratto da un testo teatrale degli anni 90 che appunto si chiama Le guerre orrende di Pino Costalunga. Senza l'H, anche se l'autore del testo poi ci confessò, ci ha detto che lui l'H l'avrebbe voluta, ma insomma per ragioni più insomma, commerciali non la mise al tempo. E invece noi abbiamo ritenuto, appunto, essendo molto particolari, di rimettere l'H nel titolo dell'opera. Come nasce tutto il progetto? Nasce appunto da questo testo teatrale che l'attore protagonista, nonché sceneggiatore del film Livio Pacella, mi ha fatto leggere. Noi cercavamo un testo che si occupasse di prima guerra mondiale, e questo si occupava di tutte le guerre, e da lì insomma c'è stato tutto un adattamento cinematografico e da lì è nato il progetto. Cosa ti aveva convinto del testo? Mi aveva convinto il messaggio principale, che era un film sulla follia di tutte le guerre, proprio il tema fondante del film, e poi partiva come una farsa, come una sorta di commedia, e poi invece finiva insomma, ti faceva ben assaporare la follia della guerra. Su cosa avete puntato nella messa in scena? La messa in scena, essendo comunque un film piccolo, indipendente, abbiamo puntato sulla bellezza della fotografia e sulla suggestione dei luoghi e anche sui costumi, che insomma abbiamo avuto dei fornitori che sono stati molto disponibili con noi, quindi avevamo costumi molto belli, location bellissime, c'è cioè questo albero che alcuni dicono che è il protagonista silente del film, c'è cioè questo albero di 250 anni che agli abitanti del luogo è chiamato l'albero della felicità, perché la gente si sposa anche sotto quella quercia, che in realtà è un carpine, ma tutti chiamano quercia, ed è una pianta straordinaria che è la location principale del film. Dato che hai tirato in ballo Jodorowsky, volevo chiederti quali sono i vostri riferimenti linguistici ed estetici. Ma sicuramente noi veniamo dal primo film, che è Ritual, dove appunto era tratto da un libro di Jodorowsky, da una parte della Danza della Realtà, e c'era Jodorowsky che faceva un cameo. E poi come estetica in realtà il secondo è più essenziale, nel senso il primo era, c'erano molte inquadrature, molti carrelli, molti movimenti, il secondo è per la maggior parte a spalla ed è molto essenziale, però secondo me la narrazione in questo ne ha acquistato. Che tipo di uscita avete pensato dopo i vari passaggi festivalieri? Guarda, noi in realtà siamo fuori col film con tutta una serie di anteprime, con moviola e distribuzione dal 16 aprile. Sì. Dal 16 aprile c'è stato il Farnese, poi abbiamo fatto tutta una serie di date nel nord Italia e il film è andato molto bene, e quindi facciamo queste proiezioni ad evento, però Ok. il film appunto era diciamo il nostro disegno iniziale. Iniziare a fare tutta una serie di anteprime per poi vedere se ottenevamo la tenitura dei cinema. E questa cosa si sta verificando, perché comunque adesso a Vicenza siamo rimasti una settimana, all'Aquila torniamo per due, poi andremo in Puglia un'altra settimana, insomma, quindi oltre le rassegne estive. L'idea è che di tenere il film il più possibile, secondo anche il distributore. E per saperne di più ci dai dei riferimenti web? Sì, allora c'è la pagina Facebook del film, che è appunto, si va su Facebook, è Le guerre orrende con l'H davanti a orrende, e poi c'è il sito di Moviola Distribuzione con due O dopo la M e due O dopo la V. Anche sul sito di Moviola Distribuzione ci sono le date del film. Un'ultima curiosità, com'è lavorare a quattro mani? Beh, lavorare a quattro mani è intenso e a volte non è semplice perché comunque bisogna cercare di concordare tutta una serie di visioni diverse, però insomma ormai lavoriamo a quattro mani da molto tempo, quindi diciamo che siamo Affiatati. rodati nel lavorare assieme. Sì. Allora ricordiamo il film Le guerre orrende di Luca Immesi e Giulia Brazzale al Nuovo Cinema Aquila dal 21 giugno al 5 luglio a Roma. E mi dicevi della vostra presenza in sala di presentazione, ce lo ripeti? Sì, volevo dirvi che il film appunto è in sala Cinema Nuovo Aquila dal 21 alle ore 21:30, ma noi saremo in sala il 22, sempre ore 21:30, e saremo io e Giulia Brazzale come registi e appunto il cast principale Livio Pacella, Dario Leone e Desiree Giorgetti. Luca, un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, Capilupo, grazie Federico, a presto, ciao.